E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni, che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La Zanzara. Dicono, caro Parenzo, che Berlusconi abbia il mal d'Africa. Hai capito? Dicono che abbia il mal d'Africa. Chi? Berlusconi. Ah, perché è stato troppo combriatore in Kenya. Sì, dicono che abbia nostalgia dall'Africa. Io sono felice solo qui, un po' come Hemingway, un po' come tanti altri come che Hemingway. Si sono. Ma di chi bestemmi? No, dico come tanti altri che si sono innamorati dell'Africa, no? Ti ricordi? Ecco, anche Veltroni aveva il mal d'Africa, però poi non c'è andato, diciamo. Sì, lui però ci va adesso, va, certo, va nella villa di Briatore, per carità, non è che va. Poi dicono che si occupa anche della povera gente lì in Africa, poi insomma, vedremo anche della povera gente lì quando è in Africa da Briatore. Cioè si rende conto di quella che è la realtà lì dell'Africa, dicono. Scusami, adesso sì. Fai tutta la presentazione, il solito lancio della trasmissione. Ma non c'è bisogno di ridere, queste sono cose serie, non è che stiamo parlando no, di... Dimmi. Con tutto rispetto. Sì. Un simpaticissimo e bravo miliardario. Vabbè, che Berlusconi. Non si può occupare di Africa? Sì, ma va in Africa in una villa resort pazzesca del signor Briatore. Sì. E da lì dice: mi voglio occupare dei poveri d'Africa. Amico mio! No, non l'ha detto. Non mi l'ha fanno detto. Tenerezza i poveri africani, amico mio! Dal resort il signor Briatore, amico mio! Comunque, prima di tornare da Briatore a Malindi e dintorni, aspetta un attimo, Malindi e dintorni, ha fatto questa famosa conferenza stampa ieri con Alfano, al termine di tutto un casino, no? Hai visto? Col signor Alfano. Ah, con il signor sì, Alfano. L'ho sentito nominare ultimamente. Sì. Ha fatto questa conferenza stampa in cui insomma si sarebbero riconciliati, eccetera, eccetera. Però la cosa curiosa è questa qui. Sì. Berlusconi aveva intenzione di fare le primarie con i call center. Sì. Cioè... Hai capito, no? Sì, ho sentito, ho visto. No, ma i call center, dai, ma così va a fare le primarie con i call center? Di che cosa ti stupisci? Uno che ha fatto il Palazzo dei Cigni. Aspetta, sentiamo il call center. Io avevo fatto una proposta diversa. La mia proposta era molto semplice e ritengo ancora che fosse una proposta molto democratica, cioè di far votare per la scelta del nostro candidato leader gli iscritti di Forza Italia, del Popolo della Libertà, e eventualmente di consentire a chi volesse votare di iscriversi al Popolo della Libertà e di poter immediatamente votare. Tutto si poteva fare attraverso dei call center in un periodo di tempo di 10-12 giorni. Le primarie con i call center. Poi dice anche che i nostri governi sono stati migliori della storia della Repubblica. Vabbè, questo l'ha detto mille volte. E anche prendere l'occasione per ricordare, come diceva, tutti gli italiani quanto abbiamo realizzato i nostri governi, che noi riteniamo siano stati migliori della storia della Repubblica. Ricordo un particolare, un dettaglio. Ma la gente decide se uno è stato il miglior governo della storia della Repubblica nelle urne no, votando. Ma uno se lo può anche dire da solo. Sì, certo, non c'è dubbio. Poi la frase più bella è questa: il disgusto della politica è colpa dei tecnici. Ma come, ma scusi, il signor Fiorito, cari amici della Zanzara, il signor Fiorito era un tecnico oppure un uomo del PDL nel Lazio? Perché queste cose mi fanno andare in bestia. La delusione o addirittura il disgusto nei confronti di questa politica è assolutamente generale. E da che cosa viene? Beh, viene dal fatto che la politica ha dovuto tirarsi indietro per quello che è successo, si è aperta una parentesi nella nostra vita democratica, un governo di tecnici si è installato al posto di un governo eletto dai cittadini, ha sposato una politica economica che fa male al paese. Eccetera, eccetera, eccetera. Dunque la colpa del disgusto degli italiani per la politica è dei tecnici. Vabbè. Tutto finito. Qualcuno mi segnala giustamente che tra l'altro la signora Maria Rosaria Rossi, anch'essa volata in Kenya con il cavaliere, ha una società, gestisce insieme al marito, sembra una società di call center, caro Parenzo. Forse il cavaliere stava pensando a questo, forse. Forse, non lo so, vediamo, vediamo, vediamo. Beh, però ieri c'è stata una difesa un tantinello vergognosa, in qualche passaggio a servizio pubblico di Di Pietro. Diciamo che no, è stato un po' accarezzato, per carità, poi c'è stata battaglia con Mentana, però insomma in altre occasioni un avversario politico sarebbe stato lapidato a servizio pubblico, sarebbe stato impallinato, distrutto, forse senza nemmeno chiamarlo, attraverso intercettazioni, sceneggiate, attraverso tutta una sceneggiatura, no, che veniva là approntata per distruggerlo, ma giustamente, perché quello è il mestiere di moltissimi talk show e va benissimo. Però ieri insomma Di Pietro, no, alla fine la colpevole sembrava la Gabanelli, sia dalle parole di Travaglio che dalle parole dello stesso Santoro. Insomma, mi sembra un po' troppo, francamente, no? Però alcune perdite di Pietro vanno ricordate. Ho il vizio di parlare in dipietrese. Questo maledetto vizio mio di parlare in dipietrese. Mia moglie non è mia moglie. Ma io in realtà non è che volevo disconoscere mia moglie, che saluto. Poverina, è stata pure operata. Ma sei arrabbiata almeno? Sei arrabbiata almeno? Lei non capisce. Pelli di tigre per terra, ricordo. Oh, Grillo dice che questa soglia famosa di cui tutti gli italiani si interessano, tutta questa soglia, cioè la soglia per arrivare al premio di maggioranza che è alzata al 42% per una coalizione, è un colpo di Stato. Non si capisce perché dovrebbe essere un colpo di Stato, è il contrario casomai, no? Cioè una soglia troppo bassa favorirebbe le coalizioni che raggiungono, che non ottengono tanti voti, ma comunque lasciamo perdere questi tecnicismi. Hai detto le colpo di Stato. Hai detto le coalizioni. No, voglio dire, in teoria è antidemocratico. È antidemocratico far raggiungere, cioè far ottenere tanti voti con, capito? Con una percentuale io minore. Ho capito, ma per spiegare a chi ci ascolta, cioè hai detto le coalizioni, giustamente, sì. Siccome lui non si presenta in coalizione, ma si presenta da solo, è incazzato. Ma mi interessa poco, perché il tema, chi è in autostrada e ha avuto una giornata di lavoro, se sente parlare di sistema DONT, sì, o anche semplicemente di scorporo, giustamente sbrocca. Preme l'acceleratore a 2,40. Sì. Fari spenti nella notte, apre le portiere della macchina anche mentre sì, freccia, sì, e mette il solito bambino davanti attaccato al tergicristallo. Allora, la signora Galli, abbiamo già un ospite molto importante, collegato, però io questo lo valuteremo. Certo, comunque. Chiaro, vi voglio far ascoltare il consigliere provinciale Galli della Lega, signor quello Galli, di Monza, no? La signora Galli, Donatella Galli, te la ricordi l'altra sera, no? Come? Fino adesso non ha parlato con nessuno, l'altra sera l'abbiamo beccata al volo per telefono, quella che ha scritto su Facebook Forza Vesuvio, Forza sì, Etna, te lo ricordi? Sì. No. Non chiede scusa, non si dimette, è uno scherzo, una goliardata. Ha detto, aveva anche postato quella foto dell'Italia tagliata in due col sud sprofondato, no? Te lo ricordi? Sì, la signora Galli. Ma ricordo perfettamente, come dimenticarla. Allora, guarda, due cose clamorose ti voglio fare sentire. Primo, pare che si sia ispirata a una barzelletta, quella di Aladino, col desiderio, con i tre desideri. Il suo ha detto da noi ieri. Ma non ti ricordi nulla, l'altro ieri era. Desiderio e la Terronia sprofondata, senti. La barzelletta era... Dunque, c'è la lampada di Aladino, se non sono capace di raccontarle, comunque poi se la strappo da lei. Allora, il primo desiderio, qual è? Che il meridione, cioè la Terronia, noi la chiamiamo così, no? La Terronia sprofondi di tutta. Poi il secondo desiderio è che riemerga. E allora il Aladino dice, cioè il genio della lampada dice, ma che cavolo fai? Mi fai tirare su, poi tirare giù, e poi c'è il terzo desiderio in cui sprofonda di nuovo. Ma non la sa questa barzelletta qua, che sono 30 anni che è in giro. Consigliere provinciale della Lega, la signora Galli, poi se seguirà altro, abbiamo molto tempo. È con noi il mitico, intramontabile Alberto Zangrillo, primario al San Raffaele, medico personale di Berlusconi, buonasera. Ciao Giuseppe. Come stai? Grazie, come stai? Bene, sono pronto all'esame di valutazione di David. Ma io volevo, adesso ne approfitto. Non rompere le scatole, Alberto Zangrillo, che è un mio amico, è una brava persona, ma è il medico personale di Berlusconi, questo non c'entra. No, ma ne siccome è uno dei più, senza alcuna ironia, siccome è un grande medico, ne sento parlare. Ma che ne sai tu? Che ne sai tu? Lo posso sapere io, che qualche volta mi sono fatto così. Allora io volevo dire questo, approfitto della radio di questa cosa. Se la settimana prossima sono a Milano, è molto serio, se posso fare una visitina 300 magari, euro. Quanto? 300. No. 300. 500. Possiamo chiudere a 2,30, chiudiamo. No. Non è una trattativa. Poi fate la trattativa voi, poi fate la trattativa voi. Dai, no, insomma. Però veramente, ho sentito parlare molto molto bene. Da vabbè, ma che devi fare? Che hai le emorroidi? Che hai? Perché l'hai detto così alla radio? Non posso stare seduto da 3 giorni, lo sai. Sono 3 giorni che non sto seduto. All'inizio era anche piacevole. Professore, ma perché non è andato in Kenya anche lei adesso per la seconda volta, no, o terza? Comunque, Davide lo visito grazie, come tutti i pazienti che mi vengono... diciamo segnalati perché, lo so. perché devo lavorare. Ma mi è dispiaciuto potersi andare perché è veramente un'esperienza unica, però dovevo lavorare. Doveva lavorare stavolta, eh? Sì, non si era rotto le scatole di passare una settimana con Berlusconi insieme lì in Kenya, no? Ma non è vero, no, non mi sono per niente rotto le scatole, è stata veramente un'esperienza unica, Un'esperienza unica, però è un'esperienza, una vacanza in un grande resort, no? In un resort per miliardari, ne avrà fatte lei di vacanze simili in qualche resort? No, cioè, qual è stata la cosa più bella in quella settimana in Kenya? Sono un povero Cristo, per cui no, non mi era mai capitato, ma non è niente di straordinario, Certo, contrasta molto con quella che è la realtà che ti circonda, ecco, però è tutto dubbio. Veramente, come dire, a misura d'uomo e anche a misura d'ambiente, perché bisogna veramente avere molta delicatezza e anche molta attenzione quando ci si pone in determinate circostanze, capisci? No, non capisco, cioè nel senso uno va in un resort, voglio dire, tu esci da quello che tu definisci il resort da fanta miliardario e ti trovi in una realtà che è completamente diversa, è una realtà unica, una realtà che va capita, che va interpretata. Ma Berlusconi l'ha fatto? Che ti fa pensare, sì, Berlusconi è un uomo, ma è uscito da lì, da quel resort, sensibile. È uscito, no, da quel resort, sai che ci siete sempre voi fuori, no? Con beh, noi veramente in Kenya, in Kenya noi non ci siamo andati adesso. No, comunque lui è uscito in questo modo, appunto, di proprio di verificare con mano. È uscito o no? Non è come uscito. No? Come no? Ah, come è uscito, no? Sì. Certo. Dove è andato? Dove è andato? Alle periferie di Malindi? Dove è andato? Ma sai, lì è tutto periferia, nel senso che è, come dire, è un fronte... In mezzo alle baracche? È stato in mezzo alle baracche? E tu appunto passi da una struttura di questo tipo appunto alle baracche. Cioè è stato in mezzo alle baracche? Vissute, sì, con estrema dignità, è veramente... Sì. Veramente la cosa che ha colpito tutti, io che sono andato per la prima volta, è veramente quella di doversi accostare molta attenzione, con molto rispetto e meditare veramente. Pensare, cioè ha meditato molto? Che vorrà, ha meditato molto? Vorrà costruire un villaggio, vedrai. No, si vuole comprare la casa? La mettete sempre sul business. No, però ma è vero che vuole comprare una casa? Cose, ma io non lo so, non me l'ha detto. Ma che ne so, magari l'ha portata là in giro. Ti piace, Alberto, quella casa lì? Ti piace? Ne ha già tante. Però ecco, voglio dire, se io dovessi consigliarglielo, glielo consiglierei, perché quella è appunto una dimensione che ti fa tornare alla realtà. Ecco, questo è interessante. Cioè, lei dice, se io dovessi consigliare qualcosa a Berlusconi, gli consiglierei. Ma lui ci pensa seriamente a stabilirsi in Kenya, secondo lei? Ma allora, sicuramente lui ha tantissime possibilità di andare ovunque, anche in altre zone. Certo. Per cui, capisci, il fatto che in tempi così ravvicinati abbia sentito la necessità di, secondo me, la dice lunga. Cioè, si vuole, alla fine ci sta pensando. No, guarda, è un posto veramente che ti porta a... Ma c'è un microclima per una persona di 76 anni come lui, no? No, è straordinario, perché è sempre ventilato, non arrivi mai sopra i 30 gradi. Sì. Non so, quindi voglio dire, è sempre... È perfetto, dire, diciamo, anche per le cose che ha lui, per i piccoli malanni, diciamo, no? Ah, sì, è straordinario, guarda. È un posto dove fare la riabilitazione, sia la riabilitazione mentale, neurologica, che quella fisica, cardiovascolare, ortopedica, fisiatrica... Beh, perfetto. Purtroppo ci sono 8 ore di aereo, però... Vabbè, quello che c'entra. È un paradiso, veramente. 8 ore di aereo, quello con... uno può partire quando... Di notte, non te ne accorgi. Ma sì, 8 ore di aereo. Ma ci sono controindicazioni? Qualche zanzarina, qualche cosa? No, non c'è niente, no, proprio... È bonificata per la malaria. Infatti non è previsto proprio anche dalla legislazione di doversi sottoporre a profilassi con i vaccini. Ci sta pensando, insomma, no? Non mi dispiacerebbe. Ecco, no, no, anche cioè, se lei da medico dice, vabbè, questo è un posto, diciamo, per una serie di cose ideale. Ai, Allora, 800 24 00 24, riprendiamo la zanzara. Beh, oggi c'è stata una sfilata di testimoni al processo Rubi, caro Parenzo. Poi, ho visto poi daremo tutti i dettagli. Quello che è uscito fuori, che io già sapevo in realtà, è che Berlusconi ha stabilito un massimale, cioè una cifra massima, cioè una serie di persone che per vari motivi adesso non stiamo qui a spiegare, a varie persone a cui dà dei soldi, ha stabilito un tetto massimo a tutte, perché sono donne ovviamente, 2500 euro. Sentiamo la signora Polanco. Questo è anche normale. Beh, no, ha stabilito tutte e molte sono arrabbiate per questo, io so, perché alcune le conosco. Ma questo è giusto. Per quanto potrà andare avanti questo risarcimento? Io spero che lui viva vita per me, perché ti dico, dopo non sappiamo più cosa fare, come fare. Quindi magari ognuno di noi si inventa qualcosa da fare, già che comunque se lavoriamo nella TV media dicono che siamo lì per lui, quindi lui va nei casini. È tutta chiusa la nostra strada, sai. Allora, domanda da $1 milione al professor Zangrillo, che non riguarda ovviamente questa vicenda qua, medico personale di Berlusconi, ed è questa: ma è vero o no? Lei adesso mi dirà di no, non lo so, eccetera. È vero o no che Berlusconi in Kenya era con la signora Pascale, fidanzata, ufficiale o semiufficiale? Sì o no? A me non risulta, io non mi occupo, ma non ci davamo del tu. Ah sì, scusi, mi sono sbagliato, scusami. Sono abituato a lei. Io non mi occupo di questa sfera, però io non l'ho vista, ecco, quindi... Non c'era. Beh, ma possiamo dire, dottore, che comunque, felicemente fidanzato? Felicemente fidanzato. Non mi risulta nemmeno questo, veramente. Non risulta nemmeno questo. No, scusi, no, però no. Adesso, se dovesse lei consigliare a Berlusconi di andare, no, ma lasciamo perdere questo fatto, tanto so che ci sono delle risposte che non possono che essere quelle. Contate. Ecco, Cicchitto, Gaspari o La Russa, o il Kenya, cosa consiglierebbe a Berlusconi? Ecco, esatto. Cioè, incontri, cioè, provocano molto stress, cioè, rispetto allo stress... No, scusa, non ho capito la domanda. Se lui dovesse... Cioè, frequentare ancora Cicchitto, Gaspari e La Russa oppure andare in Kenya, lei cosa consiglierebbe, Berlusconi? No, 10.000 volte in Kenya, cioè, per la... Cioè, quelli sono peggio di una malattia, cioè... Ma io non li conosco, però, voglio dire... Provocano stress, provocano... Deve disintossicare l'uomo. Provocano molto stress, diciamo la verità. Cioè, sai, è lo stress di un Cristiano Ronaldo che a un certo punto si trova a giocare in Serie C. Beh, questo è interessante. In che senso? Scusi, lui è come Cristiano Ronaldo che a un certo punto ormai non ha più, cioè, non è più quello di prima. Questa è la realtà, no? Che okay, è costretto a fine carriera. È costretto a giocare in una squadra di seconda o di terza divisione, quindi ovviamente è innervosito, no? Mi sembra che tu l'abbia visto. Anche per colpa sua, però, no? Questo non lo so, sai, una serie di circostanze hanno determinato che ciò accadesse. Sicuramente non è la situazione ideale per lui. Non c'è dubbio. Da un punto di vista clinico, quanto questo stress... comporta stress, uno stress... No, ma dico, vedere... Che dicevi, Alberto, scusa? Dal punto di vista clinico, questo comporta uno stress inimmaginabile, perché l'uomo è un protagonista, per cui praticamente dovendo dar retta a tutti, no, poi adesso... Ci sono mille versioni, mille situazioni, mille prospettive, mille persone che dicono di avergli parlato, mille persone che si fanno di poter fare le primarie. Cioè, lei come medico gli sconsiglia la campagna elettorale, queste primarie, cioè, come medico, questa campagna, la prossima campagna elettorale, la sconsiglia, sì o no? Ma io credo che lui debba fare il padre nobile, quindi senza campagna elettorale, smarcarsi da questo tipo di conciliabolo che non appartiene. Certo. Ma che dieta seguiva la dissociata, la tisanoreica? Lì c'è una straordinaria opportunità di provare la dieta Chenot, no? Perché c'è questa... La Chenot. Sì, che non è male, io l'ho valutata e non è male, sì, appunto, è una dieta abbastanza bilanciata, è una dieta che ovviamente contiene carboidrati, è una dieta molto naturale, è una dieta che quindi... si arricchisce per il fatto che lì puoi mangiare la frutta locale, ma anche le papaie, gli ananas. Beh, che posto ideale! Assolutamente tollerabile. All'inizio io un po' sofferto, poi però devo dire che anch'io sono calato. Anche lei è calato, Sì, sì, sono calato. Beh, siamo al top. Parenzo, ma le keniote la guardate, Berlusconi? Da Grillo, le keniote, le signorine keniote, belle ragazze. Quando arrivi lì devi veramente predisporti su un'altra dimensione. Cioè non si fa sesso, dice Lelli. No. No, non credo proprio. Non no, si no, fa lo, sesso. Lo escludo. Guardano proprio. I leoni. Proprio guarda. Perché non ti viene nemmeno in mente. No, è meditazione, beh, meditazione pura. Sicuro. Non credo appunto che sia uno di quei siti dove... No, meditazione, avrebbe... meditazione. Sì, diciamo. Devo dire di sì. Meditazione. Riflessione e contemplazione. Caro Alberto, ti abbraccio. Ciao Giuseppe, un abbraccio e saluto anche a Davide. Anch'io ti voglio bene. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sentite cosa si vuole inventare Antonio Di Pietro per le prossime candidature alle politiche, non si sa in quale partito perché l'Idea dei Valori si sta sciogliendo. Comunque dice che funzionerà come per le pubblicazioni nuziali. Adesso, dalle prossime elezioni in poi, ricorro alle cosiddette pubblicazioni di nozze. Che cosa sono? Prima di candidare i candidati dell'Italia dei Valori, noi li mettiamo in rete, come si mette il prete, lo mette fuori dalla chiesa. Se qualcuno abbia da dire qualcosa, aiutateci a capire chi è questa persona. In quel servizio, cioè Report, non mi sono piaciuto. Ripeto, ieri si è lisciato moltissimo il pelo al signor Di Pietro. Un altro sarebbe stato lapidato. Lapidato. Non entro nei dettagli. Lapidato un altro sarebbe stato. Ma va benissimo. Ognuno sceglie i propri amici, meno nemici, no? Eccetera, eccetera. Voglio dire, io se dovessi rifare quel servizio, così come sono, io non mi sono piaciuto, va bene. Mia moglie non è una signorina di Arcore, ma nessuno l'aveva mai detto, caro Di Pietro, eh? Cioè, cosa c'entrano le signorine di Arcore? Stiamo parlando di una persona, non è una signorina di Arcore, ha quasi 60 anni, ha 40 anni di lavoro, viene dalla famiglia di avvocati, fa l'avvocato, è docente universitario. Io però rischiare i soldi del partito, cioè la questione della fondazione, cioè, questo era il problema, Antonio, lo ma sai. Certo, ma sto dicendo su questo, però quando io mi sono arrabbiato, mi sono inalberato, cosa volevo dire? Su questo io, ed ecco perché io sono orgoglioso di questo, io ho già portato tutto alla magistratura. Ma il problema non è la magistratura, il problema è non si è risposto ieri a Ballarò, a servizio pubblico, a una domanda molto semplice. Giusto, Parenzo? Seguimi. Ti sto allora seguendo, è arrivato Caldarola e la signora mia e li stavo salutando. Ma beh, ma insomma, la gente non li conosce, cioè non è ma che non poi... li conosce, Caldarola è l'autore. Il grande reality della Zanzara, ma ti spiegaci chi è arrivato no, nel posto in cui stai, che poi è la 7, Francesco Caldarola. Benissimo. Siccome sono alla 7, ho appena finito di lavorare per questo collegamento durissimo che farò domani da Merano. Durissimo, certo. È entrato il curatore della trasmissione, che sarebbe anche il supervisore assoluto e totale di questa grande baracca che gestiamo qui. Sì. Che è il signor Caldarola. Poi? E c'è la signora mia, che è un autorevole e simpatica collega, che era qui. Mi hanno salutato e per educazione ho salutato. Se anche questo diventa un caso, io chiamo i sindacati a questo aspetta punto. Un attimo, allora stavo dicendo, mi hai interrotto, stavo dicendo che non è stato spiegato in maniera chiara da parte di Di Pietro perché gli affitti delle case acquistate con mutuo erano pagati dall'Italia dei Valori con il finanziamento pubblico. Lui dice: in realtà io potevo affittarli, diciamo, a esatto. una cifra superiore, no? Esatto. Però il problema resta, di una esatto. commistione tra i soldi che venivano dal finanziamento pubblico e gli affair privati di Di Pietro. TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Legge elettorale, Grillo, colpo di Stato, cambiarla ora, Schifani, fare presto, il Movimento 5 Stelle all'80%, Bersani, no, l'ingovernabilità, lo strappo di Alfano e l'incognita Berlusconi, Fini ospite del TG3, ora nuova pagina per i moderati, Mangelino chiarisca sul sostegno a Monti. Renzi attacca il segretario del PD e garante dell'attuale classe dirigente, D'Alema dal sindaco di Firenze, progetto fragile. 5 paesi bloccano gli aiuti europei per i danni del terremoto in Emilia, non vogliono versare soldi nelle casse rimaste vuote. Al processo Ruby 2 in aula Emilio Fede accusato di sfruttamento della prostituzione, le oggettine, Berlusconi ci versa ancora 2.500 euro al mese. Barack Obama con le lacrime agli occhi ringrazia il suo staff e poi torna a Washington per occuparsi di crescita e debito. Il web boicotta IKEA con un sit-in online, il sito del colosso svedese inondato di post di protesta dopo la cancellazione di 107 posti di lavoro. stato uno shock. Senti questa, senti questa. Gianfranco Rotondi, torno a fare il tecnico laureato, vinsi un concorso all'università. Il mio rilievo politico è ridotto a lumicino. Francesco Pionati, torno in Rai. Avevo offerto a Berlusconi i consigli giusti per uscire dal pantano. Ora voglio fare il corrispondente dall'estero. Fabio Evangelisti, Italia dei Valori. Guiderò ambulanze. Mi fa schifo il sangue, ma reggerò l'urto. Luca Bellotti, te lo ricordi, PDL? Come no? Tornerò all'agricoltura. Che è il solito di Spalletti. Cioè, cosa faranno i politici se non dovessero rimanere? Quello delle ambulanze non ho capito, Evangelisti. Perché evidentemente è un infermiere, non lo so. Non credo, eh. Mario Pepe, PDL, torno a fare il medico. Mia moglie mi ha già stirato il camice. Ma se dovessero esserci le preferenze, me la gioco sul territorio. Ecco. Iole Santelli, PDL. Vorrei girare l'Europa, ma parlo anche un po' di arabo. Quindi? Ho scoperto che in Cina hanno un diritto civile simile al nostro. Potrei andare lì. Giorgio Straquadagno, ex PDL. Mi darò al lobbismo o farò l'analista politico come Stefano Folli. No! Stai attento, caro Stefano! Stai no. attento, caro Stefano! No, l'analista come Stefano Folli! No, ma perché deve fare questo paragone col grande Folli? Perché? Vabbè, magari è più bravo, che ne sai? Cioè... Vabbè, allora anch'io sì, farò l'analista politico come Dalimonte. Senti questa di Vendola, eh. Non può venire il cambiamento da una coalizione monosessuata. Basta con queste cose. Anche quando uno non vuole parlare di sesso, la coalizione monosessuata credo che sia quella di Vasto, non so, ma cioè ci vuole mettere per forza una femmina, una donna. No, ma poi Vendola, il bello è che accusano noi che siamo fissati con la coalizione donna. Monosessuata. Tanto la foto di Vasto è stata, diciamo, enfatizzata oltre ogni merito, era una foto modesta. Anche perché era la foto di tre maschi. L'idea che una coalizione di cambiamento possa essere monosessuata è per me un'idea. Oh, l'avete fatta un'idea. Voi la foto, però. Abbiamo fatto un siete voi i leader di quelle formazioni. Abbiamo, è stato l'arguto Mentana che ha costruito, diciamo, un'intera narrazione sulla foto di Vasto. Non ho capito, sta rinnegando la foto di Vasto. Ce l'ha fatta lui, giustamente gli hanno suggerito. Cioè, non è che c'ero io là, c'era lui insieme a Di Pietro. A Bersani, vabbè, roba passata. Battuta di Mentana a Di Pietro. Senti, non è che l'ho candidato io, non è che avete portato in Parlamento Ratzinger, ma avete portato Razzi in Parlamento. Ma il problema non è che ti tradiscono, è che tu hai portato in Parlamento Di Gregorio, hai portato Scilipoti, hai portato Razzi. Non è che hai portato Ratzinger, hai portato Razzi. Scusa, Razzi, cos'hai da dire? Scusa. Ho portato un operaio che veniva dalla Svizzera e che lavorava in Svizzera e che non ha mai fatto... Ma sai quante ce ne sono di operai svizzeri? Allora, abbi pazienza, io no. Ma lo sai quanti ce ne sono di operai svizzera? Vabbè, su questo meglio Razzi di Ratzinger in Parlamento. Ma dai, non dire stupidaggini, eh. Era una battuta, meglio... Sì, ho capito, ma era una battuta. Non è che hai portato, diciamo, un filosofo della scienza... come cioè, non filosofo, appunto, insomma, un pensatore come Ratzinger. Più, ma infatti da questo punto di vista io sì, non faccio una battuta... È più rappresentativo, con tutta l'ironia che si può fare, un operaio che parla come Razzi che non un grande teologo di chiesa, vagamente, come dire, vagamente che? Conservatore, diciamo, vagamente. Vabbè, come tutti i papi. Annarella mia, cosa ti sei fatta scappare oggi, la vecchiaia? Ma guarda che sono stata sotto casa un sacco di volte, ho detto pure i carabinieri, datemi la pistola, mi metto qua, ci dormo pure, basta che esci, c'è spazio. Non te l'hanno fatto male. No. Cioè, voleva dormire sotto casa di Berlusconi, ha chiesto la pistola ai carabinieri per sparare a Berlusconi. No. Annarella, su. Esagerato. I 2500 euro dati alle signore che frequentavano a Arcore, insomma, no? Eccetera, eccetera. Dove andiamo? La Polanco l'abbiamo sentita. 2500 euro, ma sono pochi. Anzi, no, sentiamo questo, sì. So che capirà. Quello che lui mi mantiene mensualmente, fa arrivare i soldi pochissimi rispetto a quello che potevo guadagnare io lavorando, sì. Potevo avere qualcosa in più, quindi un risarcimento. Eh sì, ma non perché per niente, sennò no, perché sa che non stiamo lavorando dopo quello che è successo, quindi adesso lui si dà una mano. Cioè la tesi insomma della signora Polanco è questa. Siccome questa storia ci ha procurato delle noie e non possiamo più lavorare, lui ci risarcisce con 2500 euro al mese, ci dà questo assegno che però per noi è poco, perché potevamo guadagnare molto di più. Poco! Poco, eh? Poco, poco. Paolo da Macerata, buonasera. Cruciani, buonasera. Dica. Senta, le volevo dire una cosa, ma lei quando sbeffeggia i suoi interlocutori, tipo quello di quel signore di ieri sera, mi riferisco alla telefonata precedente a quella del adesso lo ricordo, che comunque quel signore che molto pacatamente sì. stava dicendo che lei spesso e volentieri è troppo aggressivo con i suoi interlocutori, la stava criticando, no? Lei praticamente ha chiuso la telefonata non e mi poi risulta a sbeffeggiarlo. Praticamente definendolo il professore. Cioè, non mi risulta che ho chiuso la telefonata, Paolo. Sì, no, guardi, se la riascolti. Ci vivo con queste telefonate, ci campo con queste telefonate. Mi pare complicato che l'abbia chiusa subito. Lei ha chiuso la telefonata. L'avrò chiusa dopo 5-6 minuti di sproloquio. No. Vini giovanacci, fate il è una canzone d'amore, mi sale dal cuore. Hai capito, Parezzo? Ho sentito un inno di libertà. Mi sembrava che quelle voci libere dicessero: fatevi una canna, fatevi una canna. No, dicevano: fini giovanardi, fatevi una canna. Ah, che bello. Questo ancora dicevano. Che bello ancora. Risentiamo. Sì. Vini giovanardi, fatevi una canna. Vini giovanardi, fatevi una canna. Se aveva fatto Lisa dagli occhi blu così, dopo signora lì e passerotto non andare via, con la mia dedicata alla Maria. Ricordo quando l'ho incontrata al parco 7 anni or sono. Emilio Fede dice che non ha più i soldi per comprare le medicine. Non ho mai avuto nulla da nessuno. Questo mi dispiace. Sempre all'interno del processo. Però sentirei un'altra ragazza che è intervenuta, no? Al massimo sono una mantenuta, la signora Joana Bisan. Joana? Bisan, non so. Ah, è uguale, tanto i nomi non sono importanti. Beh, è un grande lavoratore, lavora, quindi perché il presidente Silvio Berlusconi? Perché lavora tantissimo ed è una persona di grande cuore che ci aiuta, ci dà una mano. Massimo, io posso aver fatto la mantenuta e non quello che mi devo sentire da 4 anni. Allora, una cosa su cui sono d'accordo con Travaglio è questa: se non volete le regole non andate nel Movimento 5 Stelle da ieri sera. Giustissimo, secondo me. Bravo. Bella sciocchezza. Chi vuole fare quello che gli pare, andare dove vuole. Come si fa ad andare dove si vuole? Basta non iscriversi al Movimento 5 Stelle, a nessun altro movimento e a nessun altro partito che abbia delle regole, così nessuno ti impone delle regole. Mi sono addormentato poi verso sera, mi sono svegliato e lei è... Bella sciocchezza. No, giustissimo. Senti quest'altra cosa invece che ha detto madonnale, la difesa di Di Pietro. I giornali, come mai i giornali si sono filati solamente la puntata di Report su Di Pietro? Se, la maggior parte delle volte non succede nulla dopo Report, questa volta invece... Dunque, il grande complotto. Sì, ho capito, ma qualche volta si tratta di alti funzionari di Stato, di altre cose, non ci sono temi politici caldi. No, questa è la... ci fu un'inchiesta su Comunione e Liberazione, le sue implicazioni. Ho capito, ma è Comunione e Liberazione. Qui c'era nel mirino un uomo, una persona. Ma lo sai come funziona la comunicazione in questi casi? No, no lo ma sai. È vero che. Ma certo che lo so. E allora che c'è il complotto contro Di Pietro? Cosa non c'è? Non è un complotto, è vero che questa volta. E allora, hanno e perché? Deciso di riprendere un e tema perché? Come quello del perché? È semplice, perché essendo Di Pietro il più puro che ti è pura, essendo Di Pietro ecco. Uno di quelli che esatto. ha nella constituency Benissimo. Del suo partito parla come mangi, dei valori, sì. dei valori, il fatto di aver messo l'ex moglie a capo della tesoreria in Lombardia e di aver coinvolto la moglie in quell'associazione che controlla i fondi nella fondazione o in altre cose, è evidente che qualcuno a un certo punto ti chiede il conto di un conflitto Benissimo, potenziale. Hai spiegato molto bene. E dunque cosa c'è da sorprendersi? Nulla. c'è da sorprendersi dell'impatto che comunque questa cosa senti, ha avuto. Senti, non c'è nessun complotto, dai, su. Non è complotto, chi è parte di complotto? Invece di verificare bene questa cosa, il giorno dopo giornali e TV hanno costruito una verità mediatica che ha portato a credere a 56 case, mentre stranamente la successiva puntata di Report, bellissima, su Comunione e Liberazione, non se l'è filata nessuno. Va bene, ma noi ce ne freghiamo, 800 24 00 24, e andiamo a sentire il signor Paolo da Macerata, che era con noi prima. Paolo, vada. Eccoci, no, dicevo, Cruciani, mi riferisco alla telefonata di ieri, la telefonata precedente a quella con Samorì, che è durata un minuto, se no. Sì, vabbè, Paolo, però le ho detto, passato. Io ho capito, non mi ricordo se ho interrotto la telefonata o non l'ho interrotta, quando l'ho interrotta, va benissimo, allora? E allora? Allora, lei non, penso che sbeffeggiare i suoi interlocutori sì. Per lei sia il suo punto G. Il mio punto G. Vabbè, può darsi che godo, sì, godo, ogni tanto godo, è vero. Lei gode, così come... Ogni tanto godo, che devo fare? Così come ha goduto, sì. E la cosa la ritengo stucchevole, sì, un stucchevole. Po' di tempo fa, nella telefonata, con quella povera signora della mamma di Fiorito, quando lei aveva Taormina da una parte... Sì. E la mamma di Fiorito dall'altra. No, guardi, non ho goduto per niente in quel caso. Ho semplicemente Prego. Fatto il mio mestiere, che era quello di cercare una persona che era protagonista di un fatto. Una signora di 80 e passa anni. Che vuol dire una signora di 80 e passa anni? Bene il suo mestiere. Poi, ho chiamato a casa una persona che aveva a sua volta chiamato un'altra trasmissione televisiva. Ma di che stiamo parlando? Sì. Di cosa parliamo? Sì. Stiamo parlando di come lei ha gestito la telefonata. Ma e come l'ho gestita? L'ha gestita in maniera stucchevole. Cioè, stucchevole non capisco. Che vuol dire stucchevole? Questa è la mia opinione. Vabbè, la gente non si ricorda. Grazie. Matteo da Brescia, buonasera. Ciao Cruciani, da Darfo Boario. Ascolta, volevo dire una cosa a Parenzo. All'inizio sì. Trasmissione aveva detto quella cosa su Berlusconi, no, che è troppo facile parlare dei sì. poveri, essendo lui Berlusconi. Giustamente, però volevo ricordare a Parenzo che, anche se più in piccolo, la stessa cosa che lui fa con gli operai dell'Ilva, parlando da una posizione dicendo? Comunque un po' più privilegiata, diciamo. Ma che dice? Ma come, no, ma perché la follia che è impossessata di lei? No, ma dico, nel senso, è un po' facile parlare degli operai nella facile di che? Posizione. Io faccio il mestiere. Dipende del... come fa lei, secondo me è un po' troppo io facile. Io bene o male? Io Giovanotto, facile. Giovanotto, no. Io bene o male faccio il mestiere del cronista, dico che bisognerebbe dedicare più attenzione a storie di operai, di lavoratori, eccetera. E pasteggi a champagne? Che c'entra quello che mangio e bevo io? Vabbè, fammi sentire un attimo Emilio Fede, fammi sentire Emilio Fede un secondo. A più riprese, ammette contrasti per motivi finanziari con i suoi ormai ex legali e poi ci liquida così. Oggi per esempio non ho potuto comprare le volie, c'è una di vola. Sono venuto qui con la bronchite e non c'è soldi per gli antibiotici. Diletta Giuffrida. Ma dai, su, i soldi per gli antibiotici, signor Fede, su. Facciamo una colletta. Ma dai, esagerato, io non ci credo, dai. Maurizio da Modena, buonasera, dica. €2 possiamo dargli. Cruciani, volevo fare una considerazione, in libertà un paio di considerazioni su quello che diceva il medico di Berlusconi prima, sul fatto che abbia scoperto a quasi 80 anni che c'è la fame in Africa, e questa è una buona cosa. Ma non è che l'ha scoperto adesso, ha detto che ha fatto un giretto per le baracche, è uscito... vabbè, poteva farlo anche prima, non c'era bisogno, cioè adesso 80 anni, cioè se lo scopriva prima, forse col fatto che moltiplica pesci e pane... Lui vabbè, adesso non ho capito, cosa c'è di male a farsi un giro per le baracche di Malindi, scusi? Sì, ma lo poteva anche fare prima. Ma l'avrà fatto anche prima, non lo sappiamo, quello c'ha 76 anni. Vabbè, comunque, questa era la mia opinione sul fatto che lui a 80 anni abbia scoperto la fame in Africa. No, vabbè, appunto. Grazie. La questione, poi, la seconda qual è? La seconda questione è, non le interessa, per cui ascolterà qualcos'altro da qualcun altro, grazie. No, mi interessa, Maurizio. No. Mi interessa, vada. Mi interessa, vabbè, Bruno da Prato. Buonasera, dottor Cusciani, buonasera. Dica. Posso chiederle una cortesia? Sì. Di farmi esporre completamente... quello che mi è accaduto senza essere interrotto da Parenzo. Da un'ora ascolto su Berlusconi da parte di Parenzo sarcasmo, ironia, sì. Cioè sul fatto che, come ha raccontato il suo medico, è andato lì, si è emozionato con l'Africa. No, un momento, faccia parlare. Molto livore. Io ne sono una testimonianza viva, e se sono vivo dopo 5 anni è grazie a Berlusconi. Io avevo un problema al cuore che in Italia difficilmente sarebbe stato possibile affrontarlo in qualunque clinica, e solo negli Stati Uniti avevo qualche possibilità, probabilità di risolverlo. Io non avevo i mezzi finanziari. Grazie ad un amico, amico fra virgolette, di Firenze, io sono di Prato, avvocato, tramite lui, io, grazie a Berlusconi, ho fatto questo viaggio della speranza negli Stati Uniti, sono stato operato, mi hanno fatto questo difficilissimo intervento. Ma scusi, chi ha pagato questo intervento? Non ho capito chi ha pagato questo. Quindi, quando io sento parlare Parenzo di Berlusconi, come prima facevate, degli oggettini, di quello che dà, io devo dire grazie a Berlusconi. Ma va benissimo. E a differenza di Parenzo, chi gliel'ha pagato questo intervento? Non ho capito. Io, verso Parenzo non provo livore, provo solamente pena. Quando lui vive solamente di livore e di rancore. Nessun livore, quindi, solo ironia nei confronti di tutti. Dopodiché c'è una differenza tra il giudicare quello che fa politicamente questo signore e l'aiuto che ha dato a lei e a tante altre persone. Mi fa solo felice che lei sia bene. Scusi Bruno, ma non ho capito, ma chi le ha pagato questo intervento? Ma Berlusconi. Berlusconi. Ma ha pagato che cosa? Tutto? Il viaggio? Le dirò di più. Tramite questo avvocato di Firenze, io so per certo, e vi posso fare anche nome, di quante case di riposo il presidente Berlusconi aiuta. Ma chi se ne frega? Farlo sapere, caro Parenzo. Ma chi se ne frega? Io lo valuto politicamente, non per la carica. Parenzo, non è importante che queste cose si dicono, è importante farle. Ma e non è Achille Lauro. Il silenzio fa più rumore che il rumore, caro ma Parenzo. Ma non è Achille, sì, vabbè, fa più rumore una che il cane che mangia. Io, se sono vivo oggi, è grazie al presidente Berlusconi. Ma e questo va benissimo. E quindi io vi ringrazio di avermi permesso. Ma cosa di c'entra con la critica politica a quello che fa? No, no, cosa lei, c'entra? Lei, non ha non ha un atteggiamento critico verso. Ma ho criticato anche Di Pietro. Ma perché? Lo odia. Basta, ma non lo odio per niente, lo adoro. Ma perché? Odia, posso chiedere perché la mattina lei. Tutte le sere. Tu hai ironizzato, però, Bruno, scusi un attimo. Ma Parenzo sì ha ironizzato sul fatto che il medico di Berlusconi ha raccontato che Berlusconi, quando è andato in Kenya, è uscito dal resort di è uscito dal resort di Briatore e diciamo si è emozionato, ha scoperto la realtà dell'Africa povera. A cavallo di una tigre ha attraversato le favelas, benissimo, va bene, a cavallo di una tigre e ha domato 72 leoni. Vabbè, questa è la tua ironia, su, va bene, d'accordo. Nessuna ironia, va benissimo, sono felice quando fa del bene, lo critico politicamente. Ma questo però che c'entra? Tu non l'hai criticato politicamente, l'hai preso per il culo perché è andato perché no, va bene, è andato a trovare i poveri in Africa stando al resort, sì, l'ho preso per il culo per questo. Va bene? Dopodiché, se il signore riuscisse la mattina ad usare il cotton fioc, ho già detto altre volte, senza spingere troppo perché altrimenti il cerume si pianta dentro e, forma una cortina, un muro di cerume, allora se riuscisse con un goccio di acqua la mattina a pulirsi le orecchie, capirebbe che io spesso in questa bellissima trasmissione da lei, caro Kim Jong, condotta con egregia e lucida follia, saprebbe che io anche su Di Pietro e su Aldi faccio la medesima ironia quando uno dice una sciocchezza, capito? Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia, per padri e figli e per chi ancora. Ma lo sai qual è la notizia del giorno in realtà? No, guarda, sono senza parole. La notizia del giorno già l'hai capita. È che Mimmo Scilipoti. Non voglio neanche sapere. Aspetta. Bla. No, no, dai, non fare sempre così. Su, smettila, dai. Mimmo Scilipoti. Mimmo Scilipoti. Cioè, una delle notizie per noi è che il signor Roberto Fiore, fascista di Forza Nuova, dice che la Zanzara fomenta, vabbè, lasciamo perdere questo, ne parleremo. Cosa ha detto questo signore? Poi dopo ne parleremo. Allora, Mimmo Scilipoti, se dico che è una brutta persona mi querela. Ma no, lascia perdere. Mimmo Scilipoti vuole dare una mano a Di Pietro. Cioè, lo sai che c'è il gruppo alla Camera dell'Italia Valori in bilico, no? Anzi, sicuramente non hanno i numeri dopo l'uscita di Formisano, eccetera. Lui dice: io sono disposto a garantire l'esistenza del gruppo alla Camera dell'Italia dei Valori. Che uno può dire chi se ne frega, naturalmente, no? Io pure lo dico, devo dire la verità, chi se ne frega. Però, Scilipoti? Buonasera. Come andiamo? Non molto bene. Che è successo? Ho un problema al piede, per ora. Problema al piede? Rimesso. Perché al piede? E sto andando a Fiuggi per il nostro congresso dei nostri giovani dell'MRN. Giovani dell'MRN. Vabbè, poi ne parleremo, ma... Qual è il problema al piede? Scusa, Mimmo, giovani... aspetta, è un attimo, su con questi giovani dell'MRN. Un secondo, Davide, dai, smettila. Un secondo, fammi un attimo parlare con Mimmo, scusa. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Mimmo, scusa, che problema hai a piede? Scusami. Una piccola distorsione, ma ora va meglio. Ma non è che hai fatto l'agopuntura per togliertela, no? Due aghi li ho messi e ho ottenuto un grande risultato, cioè dire un miglioramento almeno del 35%. Ah, cioè anche per le distorsioni, no, questa è una cosa che mi interessa, anche per le distorsioni, io sai che corro, no? Anche per le distorsioni si può usare, o per piccoli infortuni si può usare l'agopuntura. Cioè tu me la consigli? Ma io spero che tu non abbia mai distorsioni. No, distorsioni, sai, qualche contusione, no, contusione, allora, no, qualche problema. Speriamo che tu non abbia mai nessuna necessità di questo genere, la utilizzi o la potresti utilizzare come prevenzione, Cioè si può usare anche come prevenzione? L'agopuntura sì, andrebbe utilizzata come prevenzione. Ma se la prossima volta vengo a Roma, tu sei in grado di farmi una visita da questo punto di vista? Auguri. Ma troverei sicuramente qualche minuto per prenderci un caffè, per scambiare qualche battuta. No, ma nel senso che mi interessa molto il fatto della prevenzione, per esempio dai dolori muscolari, queste cose qui. Ma sì, si utilizza anche per i dolori muscolari, ma l'agopuntura può essere utilizzata anche per patologie molto più serie. Per esempio? Sia in fase preventiva, sia in fase curativa. Io la utilizzavo insieme alla multiterapia biologica nel trattamento delle patologie neoplastiche. Cioè, stai parlando di cancri? Multiterapia biologica. Cioè tu stai dicendo che l'agopuntura serve a guarire? Per carità. Ho detto che l'agopuntura potrebbe, io la utilizzavo insieme alla multiterapia biologica e potenziava l'effetto della multiterapia biologica, cioè l'effetto parla per le persone comuni, perché sennò la gente non capisce. La multiterapia biologica è una terapia ortomolecolare che insieme alla terapia dell'agopuntura non fa altro che potenziare le difese dell'organismo e conseguenzialmente difendersi meglio e alleviare tutti gli effetti tossici dei farmaci che si utilizzano nel protocollo oncologico. Cioè l'agopuntura serve anche serve contro il cancro, aiuta sicuramente, sì. E può essere utilizzata per alleviare tutti gli effetti collaterali dei farmaci che si utilizzano. Capito? Nel protocollo. Parenzo, impara, capra. Ma orto cosa? Orto biologico? Per esempio, il vomito, per esempio il dolore, cioè perché i malati neoplastici, certo. Quelli che sono in fase terminale hanno questi effetti collaterali dal farmaco, sì. Che è il vomito, certo. Che è la nausea e poi hanno forti dolori. Allora, utilizzando l'agopuntura potremmo ottenere un risultato veramente eccellente. Io ora ho molta nausea a sentire Vabbè, chi se ne frega, non è che possiamo fare l'agopuntura per te, scusa. Ho nausea a sentire. Allora, vuoi aiutare davvero Di Pietro? Ma Mimmo. Io ho risposto soltanto a una domanda che mi ha fatto il giornalista, ho detto potrei pensarci, ma sicuramente le nostre posizioni sono molto distanti. A questo l'ho capito, però... Io appartengo all'area del centrodestra, non faccio un passo indietro dalla scelta del 14 dicembre, mi dispiace, ma come mi dispiacerebbe per chiunque all'interno del Parlamento potesse scomparire all'improvviso e conseguenzialmente io sono... Ho capito, ma hai parlato con qualcuno? Restino all'interno del Parlamento. Ma andate, in Parlamento ci stanno lo stesso, Mimmo, ci rimangono lo stesso. No, dico nel Parlamento come entità politica, cioè dire come gruppo parlamentare. Certo, in Parlamento come parlamentari ci restano ugualmente. Eh no, ma ho poi capito. Chi oggi critica è responsabile più di Pietro. Allora, sentiamo Belisario cosa ha detto, perché il mitico pinguino Belisario ha detto una cosa interessante a proposito di Scilipoti, signor Belisario, da cristiano rispetto umano per Scilipoti, ma non lo prendiamo. Da credente rispetto umano nei confronti di Razzi e Scilipoti, ma non credo proprio che rientreranno nel gruppo dell'Italia dei Valori. Neanche se non ci sarà la deroga al numero magico 20 per il gruppo alla Camera. Le dicevo, io sono credente, sono convinto che raggiungeremo i numeri che servono e lo raggiungeremo nel migliore dei modi. Cioè, miracolo? No. operazione no, politica. Operazioni sempre politiche e di buon senso e di buon gusto. Solo cuore. Ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. La Zanzara. Solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. Per padri e figli e per chi ancora verrà. Vabbè, insomma, in realtà, Scilipoti, lei perché ha fatto questa offerta? Nessuno la vuole, la vuole là dentro, nessuno la vuole. Scusa, se tu parli sempre tu non mi fai parlare, hai ragione. Cioè, io non ho mai fatto nessuna offerta, non mi sono offerto a nessuno, ho soltanto risposto che ho detto la sua domanda mi mette in una condizione di riflessione, non ci sono i presupposti affinché io torni all'Italia dei Valori perché non condivido. Ma questo d'accordo, però... No, ma se non si dice questo poi non si capisce, perciò io all'interno dell'Italia dei Valori non ci andrò non ci andrei mai. Ho capito, ma tanto... L'unica cosa che potrei fare, ma dico questo e potrei, questo è condizionale. È dare... Dico, eventualmente non farlo scomparire per dare la possibilità di essere presente come gruppo. Ma ti piglia, ti hanno preso a pesci in faccia. È due anni che ti pigliano a pesci in faccia. Lo potrei fare come Cristiano, con l'Italia dei Valori, ma lo potrei fare anche con un altro gruppo parlamentare. Ma come Cristiano, dici? No? Come ora, cosa? Il problema non è parlare. Mi ascolti o no? Come Cristiano lo faresti? Ma no, lo faccio perché io ho rispetto degli avversari politici e credo che la politica dovrebbe essere fatta di dialogo e oltre che dialogo di mettersi intorno a un tavolo per costruire un paese e un progetto nuovo nell'interesse progetto dei nostri figli. Parenzo, hai capito? Guarda, non ho uno sciacquone. Cruciani, ma... se hai qualche altra domanda interessante da farmi, aspetto, se no chiudo e ti ringrazio. Che no, aspetta, ogni volta così però. Grande affettuosità, sei sempre bravissimo, auguri per la vostra. No, aspetta un attimo, Mimmo, ma che è sta cosa? Ma ora è roba da matti, non vuole parlare con Parenzo? Ma ti rendi conto o no, Mimmo Scilipoti? Hai capito? Vabbè, ma non è possibile. Non è che la cosa, però posso dirti, non è che la cosa mi disturbi. Cioè, no, ma adesso lo richiamiamo e lo sistemiamo, però non è possibile. Cioè, no, non è io che... volevo capire questa cosa del movimento, il congresso dei giovani. Questo è molto divertente. E siamo qui e siamo tornati. Vogliamo richiamare il signor Scilipoti che ci ha attaccato il telefono in faccia, caro Parenzo? Lo vogliamo richiamare? Sono, intanto è un atto molto maleducato. Quindi. Sì, non capisco perché non vuole parlare con te. Adesso lo richiamiamo, parlaci tu direttamente. Facciamo squillare il telefono, tanto non risponde. Deve stare al servizio del cittadino. Io adesso, se non rispondo, do un attimo, eccolo qua. Vai. Mimmo? Pronto? Mimmo, ma perché hai chiuso? Scusa, sono Parenzo. Perché ho chiuso? Ma se tu ma mi metti chiusi, non mi fai mai parlare. Ma perché mi tratti così, Parenzo? Ma non ti tratto in nessun modo. Devo farti una domanda su questa roba del movimento dei giovani della responsabilità nazionale. Ma perché chiudi? Sei un parlamentare, sei pagato da me, devi rispondere quando ti chiamiamo. Va bene, Parenzo, sono a tua completa disposizione. Dimmi che devo fare e mi metto subito sull'attenti. Ma non ti devi mettere sull'attenti. Semplicemente non capisco perché chiudi, ci fai sta pippa e agopunture sul piede, in testa. No, quello l'ho chiesto io, quello l'ho chiesto io. Ma su. Vedi che parliamo di argomenti seri quando parliamo di agopunture. Parenzo si stupisce perché... Parenzo si stupisce... Scusa, ma intanto una cosa, Berlusconi, perché è andato a fare la cosiddetta dieta scena? No, ma tu gli consiglieresti la dieta Chenò per dimagrire? C'è già tanti problemi. Cioè. Dico, io non lo so che cosa consiglierei a Berlusconi. Per la dieta, cosa gli consiglieresti? Per la dieta? Ma non lo so, guarda, non sono in condizione, io non faccio il dietologo. Beh, poi fai il medico però. Il medico sì, ma mi occupavo di ginecologia, di oncologia clinica. Una volta. Di ortomolecolare. Ancora? Di ortomolecolare. Vabbè, che vuoi chiedere sui giovani? Una cosa che mi sconvolge, cioè domani, mi sconvolge, perché io vorrei venire lì, ti confesso che vorrei venire lì a Fiumicino. E vieni, che ti aspetto. dove domani, cioè, no, perché devo andare a Merano per la sede, se no sarei venuto lì, perché questo sarebbe stato meraviglioso, dove hai convocato, c'è, cioè, questa convention, la prima convention dei giovani del Movimento di Responsabilità Nazionale. Ora, che dovrebbero fare, e tutti i parlamentari dovrebbero dare spazio ai ma giovani. Ma quali giovani? Quanti sono gli iscritti, Mimmo? Quanti sono gli iscritti tra i giovani? Noi speriamo di avere i rappresentanti di tutte le regioni all'incirca un 130-140 persone. 130-140 allora, giovani iscritti all'MRN. Perché un giovane sano, di me, con tutta sincerità, spiegami. Vedi perché. Vedi perché chiudo il telefono? Perché no, tu non sai fare un discorso serio. Ma vuoi portare sulla bagarre per delegittimare sempre tutto? No, lui dice, scusi. Questo mi dispiace perché... Vedi, potresti fare un discorso leggermente più serio, potrebbe essere utile per tutti, sia per te, per no, me, però, scusa, per la gente che ci ascolta, e potresti avere anche un po' di rispetto per quei ragazzi che sono iscritti all'MRN, perché poi rischi che qualcuno dei ragazzi ti incontra per strada e ti tira le orecchie. No, io pensavo che tu dicessi di dare una carcassata di botte, speriamo di no. No, mai, questo mai, perché l'amore priva... dell'odio prima della violenza. Questo lo dice Berlusconi, l'amore prima dell'odio. Ma questo non lo so quello che dice Berlusconi, io so quello che dico io. Però scusa, però la domanda di Parenzo non è peregrina. Dice Parenzo, perché un giovane oggi sano di mente, virgola. Vabbè, questo lo dici tu. Sano di mente, hai visto quando cerchi, perché offendi questi ragazzi? Ma non chiamami questi. Qualcuno, chiama qualche ragazzo e te lo fai spiegare da me. Però uno perché si dovrebbe iscrivere al movimento? Perché? Ma chiedilo ai ragazzi, cioè tu chiama un ragazzo, comportati bene, fallo parlare, dagli spazi e lui ti spiega perché un ragazzo oggi si iscrive al Movimento di Responsabilità Nazionale e sostiene la linea politica dell'onorevole Scilipoti. Ma qual è questa linea politica? Questo è il punto, non loro. Il problema sei tu, non loro. Ma vedi, continui ancora a cercare di delegittimare. Ma non perché avere questo gusto della delegittimazione costo. Non si sente più, Mimmo. Non si sente niente, ha fatto l'acupuntura al telefono. Mimmo! Ha fatto l'acupuntura al telefono, te lo dico. Piero De Rimini, 800-24-00. Ma no, voglio capire questo, perché io ho studiato la pratica e ho visto tutti i lavori. Sì. I lavori saranno così. Sì. A introdurre fuori il congresso sarà l'avvocato, non rido più, scusami, sarà l'avvocato Antonio Pulcini, che è il coordinatore nazionale giovani. Ma poi non c'è un nome normale, uno Scilipoti, l'altro Pulcini. Vabbè, esiste uno. No, ma sì, però, poi, uno dovrebbe dire, ci sarà uno che si chiama Rossi, cioè, no, uno si chiama Scilipoti. Anche questo è il primo problema che hai sottolineato tu, perché non sai tutta la lista degli altri. Pulcini. Non sai la lista degli altri. Poi c'è scritto, porterà il suo saluto l'onorevole dottor Domenico, e va bene, Mimmo Scilipoti. I relatori saranno, stai attento, Armando Wood, che è il segretario organizzativo dei giovani MRN. Poi c'è tal Giuseppe Testa, che è il coordinatore nazionale. Sì, Massimiliano De Martino è il coordinatore dei giovani. Sì. Valerio Viceconte. Ecco, De Martino è già un nome normale. Viceconte pure. Gian Matungulu Isang. Vabbè, che è il coordinatore nazionale africano, sì. Minoranze etniche. Allora? Sì. Poi c'è questo dipartimento qui, capitanato da Fabrizio Ferrari, che è il coordinatore nazionale Dipartimento Ambiente e Valorizzazione del Territorio. Vabbè, ho capito, poi falla veloce. No, ma ci sono, poi c'è Andrea Signini, che è coordinatore del gruppo Signoraggio Bancario e altri. Vabbè, questo è fissato. 12 nomi di queste persone che non leggo tutte. La giornata sarà aperta da Scilipoti, poi c'è scritto sarà conclusa da una tavola rotonda dell'onorevole Scilipoti. Allora, io voglio dire una cosa. No, c'è anche una serata conviviale, c'è scritto. Seguire due volte la relazione di Scilipoti, in apertura e in chiusura. Davvero, altro che acupuntura ci vuole. Comunque, mi piacerebbe conoscere questi ragazzi, davvero che si immolano per Mimmo. Va benissimo, ma sentirmi, se forse è giusto, ha ragione, bisognerebbe sentire questo signor avvocato Pulcini, che è il coordinatore nazionale dei giovani. Sarebbe interessante, probabilmente ha ragione, sì, Pulcini. Solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. Momento conviviale con serata danzante. Tra parentesi, discoteca. Hai letto il programma? Te manca la parte migliore, la conclusione. Ah, no, perché ce l'avevo, l'ho letto sulle agenzie. Amico mio, bisogna leggere l'integrale, non le agenzie. Le agenzie sono morte, finite. No, non è vero. No. Piero da Rimini, 800-24-0024. Piero, battaglia, buonasera. Ascoltatori, dica. Pronto, buonasera. Volevo ringraziarvi perché avete una serata veramente piena di spunti. E volevo lanciare un appello, assolutamente per me importante, a Silvio, in persona, di salvare la zanzara. perché secondo me se lui se ne va Malindi veramente sarà la fine della zanzara, devo dirlo. Non so se ve ne rendete conto, non però muore nell'ultimo mai. Ma devo la dire zanzara che è come anno la gramigna, l'erba cattiva, sì, non muore lo so, mai. Però dopo un anno veramente devo dire che le puntate sono quando Berlusconi fa qualche intervento quando parla, quando parla il Berlusca. Sì, ma noi ci stiamo abituando, come dire, ci stiamo abituando poco a poco all'addio, cioè ci stiamo cercando. È una cosa che state accettando, sì. Lo stiamo accettando con grande fatica, devo dire, con grandissima fatica. Con ma il fatto che veramente rischia veramente di mettere sulla strada, diciamo, due grandi, radio, diciamo, presentatori, ecco, conduttori, si dice, l'aiuto io, conduttori, scusi, sì. E anche tutte le persone molto gentili che collaborano. Ed è veramente una cosa veramente triste. Guarda. Ma guardi, ma noi non saremo messi sulla strada da Berlusconi, ti assicuro. Tutt'altro, cioè, tutt'altro. Ma veramente perché, no, adesso parlando veramente in maniera seria, sì, ecco, devo dire che veramente è qualcun altro che piace vuole metterci sulla strada, non Berlusconi, è qualcun altro, non di politica, qualcun altro, non i politici. Vabbè, lasciamo perdere. No, era semplicemente perché contribuite tanto, anche le sue nane ballerine che partecipano. Mi sembra piaciuto la vostra trasmissione, sì, e che voi riuscite a mettere a nudo la pochezza di tutta quella classe politica. Vabbè, adesso ne avete un rappresentante che è appena venuto, ecco, e veramente siete molto bravi in questo. Lo so, che non mi date complimenti. Grazie, e Piero. Sì, dica. Vada. E gli piaceva tanto, penso, a Berlusconi, Grillo, per il fatto che sono tutti e due comici e fra di loro si ammirano. Forse è vecchia, eh? Alberto, provincia di Modena. Buonasera, Cruciani, buonasera, Terenzio. Vada. Niente, volevo fare una piccola considerazione sulla signora Fornero. Cosa vuole dire ancora? Che ha combinato? No, non ha combinato niente, a parte oggi come ci ha deliziato l'altro giorno per il fatto che dell'orto. Esatto. Vabbè, però uno si può anche rilassare nell'orto, lo consiglia anche, no, adesso, questo non è grave. Quello che mi interessava sapere, perché lei una sera ha detto che Fornero avanti tutta meriterebbe di avere il suo busto in camera da letto, considerando quello che ci ha propinato in questi giorni con le sue decisioni. Vale dire, io conosco una persona, è vero che è stata licenziata 3 giorni fa, sì, grazie al decreto che ha fatto la signora Fornero. Mi sembra strano. È stata licenziata perché mi sembra strano, mi sembra strano. E poi è stato riassunto un'altra persona grazie al contratto che ha introdotto la signora Fornero, si chiama contratto Fornero, a causale, cioè senza causa. Vabbè, per adesso un anno. Guardi, voglio dire, guardi, quella è stata, se fosse stato, devo dire, se davvero attraverso la legge Fornero si può arrivare a una facilità di licenziamenti, io, come dire, altro che stato, farei il monumento, ma siccome non è così, purtroppo. No, è così, guardi, lei le do il consiglio dove c'è un eminente. Comunque, non è per questo che io l'ho criticata, anzi, per la questione delle pensioni, per la questione della legge sul lavoro, pur imperfetta e secondo me ancora molto, come dire, molto limitata, a me piace molto. Dopodiché le sue uscite non sono state le più felici in qualche occasione. Dicevamo, c'è una signora che si chiama Galli, una consigliera provinciale della Lega nella provincia, che andrebbe cancellata, non solo quella naturalmente, ma tutte, ma questa è una piccola parentesi qua aperto, Parenzo. Certo. Provincia di Monza e Brianza. La signora Galli, provincia scrive, voluta dalla Lega peraltro. Voluta fortissimamente dalla Lega, non solo, anche dal PDL, da tutti. Sì, però soprattutto dalla Lega. La signora Galli su Twitter, anzi su Facebook, scrive Forza Etna, Forza Vesuvio. Ecco. Il significato è abbastanza evidente, insomma, no? Poi posta, come si dice in gergo, una foto con l'Italia spezzata a metà, col sud sprofondato. Il sud sprofondato. L'abbiamo pizzicata al telefono. L'abbiamo pizzicata al telefono. Oltre alla barzelletta col desiderio della Terronia, così la chiama, sprofondata, dice che l'Italia spezzata è la sua filosofia. Allora, un'Italia spezzata a metà, lo sa benissimo che è la mia filosofia, perché se no non sarei della Lega. Eh beh, sì. Beh, adesso. Sì, però ha ragione, però comunque no, Maroni dove sei, dici, no? Però Maroni dove sei? Però l'indipendenza della Lega è vero che è una costante, no? In ogni caso, postare un'Italia spezzata a metà col sud sprofondato, poi lei dice no, ma io non volevo intendere che il sud, no? Vabbè. La cosa che più mi ha colpito però è un'altra, ed è questa. A un certo punto dice, beh, cinicamente si potrebbe dire, insomma, che non mi auguro che i vulcani esplodano e ammazzino tutti e distruggano il sud, perché altrimenti la ricostruzione la pagheremo noi. Senti, ma lo dicevo per scherzo io, ma scusi, ma lei secondo lei è una persona sana di mente? Cioè può augurare, anche perché scusi, cioè, ma da nessun punto di vista, se anche fossi una persona estremamente cinica, non avrei nessun interesse nel far succedere una disgrazia nel meridione, perché come lei ben sa, poi le spese della ricostruzione chi le paga? Noi, perché ci vengono messe le accise su tutto quanto, paghiamo ancora le accise del Belice, del... Donatella Galli. Maroni, dove sei? Ulisse da Treviso, buonasera. Cioè, capito, non possono fare i convegni al Lingotto vestiti con le grisaglie grigie, con gli industriali, con gli industriali, gli avvocati, gli imprenditori, e poi dire forza Etna e forza Vesuvio. Vabbè, forza Ulisse, Vesuvio, Ulisse da Treviso. Eccomi. Vada. Sono mesi che aspetto di poter dire a Parenzo che io odio Parenzo. E vabbè, questo. E chi se ne frega, sì, caro Ulisse? No, me ne frega. Siamo io, sono i suoi proci. Sai, caro mio, in quanti siamo che ti odiamo? Odiamo tutti quelli marchettari come te di sinistra. Ma marchettari, intanto. Stai calmo. Pulisciti la bocca, intanto. Fammi parlare. Faccio parlare proprio un cazzo di nessuno. No, perché marchettaro. Marchettaro lo dice a qualcun altro, ha capito? No, tu sei un marchettaro di sinistra, nel senso politico, perché tu a chiunque si esprime, si sciacqui la bocca la mattina. Qualsiasi stronzata di sinistra, si sciacqui sei la bocca. Quello che quantomeno fa gli occhi dolci innamorato. Innamorati, qualsiasi stronzata, purché provenga da una bocca di sinistra, si è innamorato, Parenzo, non dica è innamorato. Si sciacqui la mattina... No, sciacqui gli occhi, la bocca e le orecchie. Tu ti devi sciacquare, perché la devi finire, capito, di usare sarcasmo. Ma io non devo finire proprio niente. Le persone, ma io non devo finire proprio niente. Politicamente sono schierate da una parte diversa dalla tua, si devono beccare tutti i tuoi sarcasmi. Io non ho nessuna parte. Tutte le tue stronzate, tutti i tuoi giudizi. Io non... Intanto mi dia del lei, perché non abbiamo mai mangiato una pizza insieme, mai accadrà. Visto che tu ti arroghi il diritto di prendere per il culo. Chiunque non la pensi, ma con chi come, parla? Chiunque non la pensi come tutti, chiunque non la pensi come chiunque intervenga in radio, qualsiasi politico, qualsiasi persona che non sia politicamente dalla tua parte, il fatto che lei non capisca nulla non mi stupisce. Dei tuoi sarcasmi, delle tue Il fatto che lei purtroppo non capisca nulla non mi stupisce. Dai, mandami l'ambulanza, su, mandami ma l'ambulanza. Ma non mando nessuna ambulanza, perché sarebbe tempo sprecato. È tempo sprecato per persone come lei. È tempo sprecato, un bel piffero. Quando le persone per persone ideologizzate dicono, come lei, che hanno persone, dentro la testa del cerume sedimentato da secoli. Non ha nessun cerume, perché io ti ma come no? Ti sento molto bene. Fermi. Ma lei... Intanto la Russa come l'Apo Elkan, eh? Contromano e sosta vietata a Milano, traffico in tilt, Ignazio la Russa. Era una manifestazione della Giovane Italia. Scusami. Il coming out di Schifani, presidente del Senato. Basta, fammi parlare un attimo, o approviamo una nuova legge elettorale, non te la prendere, non ti scaldare. È un pigmeo del pensiero. Sì, o approviamo una nuova legge elettorale oppure Grillo arriva all'80%. Adesso non è che bisogna fare la legge elettorale per impedire a Grillo di avere consenso, Sono pazze del mio sorriso. Fini con una nota questa mattina apre al PDL, anzi ad Alfano: si liberi dall'estremismo e possiamo allearci. Forse un giorno ti potrò sfiorare. La disperazione tira brutti scherzi, E ti farò male, zanzare. Il genio Saviano traduce così Pussy Riot. E festeggiano su micine in rivolta, passioni e vanità, quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Felini in rivolta. Ulisse, che vuole ancora da Parenzo? Che voglio io immagino questo ancora. Parenzo, quando è fanciullo, quando è giovane, quando è ragazzo che va a scuola, che prende gli schiaffoni da tutti i compagni di classe, perché lo sfigato, no, del gruppo è quello che siccome non ha niente di buono da dire, da fare, è quello che viene poi fatto oggetto di tutti i sondaggi di lui. Di conseguenza, quando poi diventa finalmente qualcuno, gli dà un microfono. Ma io sento solo flatulenze. Si vendica, flatulenze dialettiche. Tornano alla mente tutti sento solo flatulenze. Vabbè, ragazzi, mi avete scocciato. Marco da Roma. Io gli dico solo questo, che quando il sole della cultura è basso, i nani come lui hanno l'aspetto di giganti. Marco da Roma, buonasera. Sì, ecco, buonasera. No, volevo l'ascoltatore di prima, dimenticavo di dire che sicuramente Parenzo era al primo banco, era quello che prendeva gli schiaffi ieri al collo. Sicuramente, quindi soltanto per dire... Lei è il fratello di quello che ha chiamato prima. Sono il una bella famiglia avete messo su, bravi, ma complimenti, come la che sua. Disgrazia. Che disgrazia, amico mio. Adesso chiamerà anche il nonno. Guardarlo è ancora più antipatico. Una bella famiglia. Ce ne eravamo liberati, Cruciani, se n'era liberato. Se n'era liberato. Ma che vuole da me, Marco? Cosa vuole? Ma cosa? Come? Vorrei che tornasse indietro sui suoi passi, perché ce ne eravamo liberati. So che fa audience, e purtroppo alla fine uno l'ascolta pure per sentirlo, perché dice delle cose allucinanti. Eppure per esempio, che dice? Lei allucina, dice cose allucinanti. Per esempio, mi faccio un esempio. Ma poverino, non gli esempi, ma poverino sei tu, col becco, ma poverino chi? Col becco, che c'è tra il becco? Ma perché c'ha la faccia, c'ha il becco, c'ha... Poverino chi? Ma come ti permetti? Ma non ho capito, lei è il fratello di un altro che ha chiamato. Ce n'è uno normale o no? Sicuramente il fratello, ma c'è uno normale. Ma, sì, c'è... ma sei solo tu quello normale. Se pensi tu di essere quello normale. Comunque, e tutti, guarda, quelli mi dispiace. Che chiamano e ti dicono le cose sono tutti imbecilli. Ti mando l'assistenza a domicilio, guarda. Ma tu l'ambulanza te la devi mettere sotto casa. Forse non hai capito, anzi una flebo diretta. Capito? Per ripulirti il cervellaccio che c'hai, perché sei bacato dentro. Well now, little mosquito, there must be. Questa non è male, sei bagato dentro. Mi ricordo una mitica frase dell'avvocato professore Carlo Tormina durante una trasmissione televisiva in cui se la pigliava con un omosessuale. Diceva: tu sei bagato dentro, sei bagato in testa, diceva. Sei bagato in testa. Detto, questa sera c'è un attacco furibondo nei confronti di Parenzo, ma adesso ti presento un grandissimo personaggio, grandissimo. Ah, ma io me ne frego. Poi è tifoso di una squadra di calcio che è la mia, quello è la cosa fondamentale, fondamentale. Io non lo dico mai, però in questo caso lo voglio dire. Dario Argento è con noi, buonasera. Buonasera cari. Il maestro come del sta? Brivido. Come sta? Sta bene, sta bene. Mettiamo poi... Profondo Rosso, la musica. No, ma sempre queste cose banali. Devo mettere la musica di Profondo Rosso, di non so quanti anni fa. Ormai è il passato, giusto? Ma è un classico. Argento, sì. Ormai è il passato, c'è Dracula adesso. Dracula! Quando sì, esce sto Dracula? Quando esce il 22 di novembre. Tra poco dunque. Bravo. Sì, tra più giorni. In 3D. Senti, ma chi è secondo te il Dracula della politica italiana? Dracula proprio, secondo me, cioè... cioè chi è che succhia il sangue? Sono terrificanti, tipo quello della Lega, come si chiama? Quello chi di è? Calderoli. Calderoli, quello lì c'ha quell'aria proprio veramente draculesca. Quello sì. Ma lo vorrebbe quello della porcata, no? Diabolica. Quello della porcata, quello della legge elettorale, la porcata. Invece la Russa c'ha un aspetto diabolico. La Russa è perfetto come Dracula, eh. Già, ma lo vorrebbe in un suo film dell'orrore? Chi vorrebbe in un film dell'orrore dei politici italiani? Io se punterei molto in alto, io vorrei Berlusconi. Ah, addirittura, cioè? Ma l'ha vista in quell'ultima conferenza stampa? Beh, è allucinante, era, cioè, veramente grigio, era grigio, molto spaventosamente tirato, era un personaggio molto pauroso, molto, molto, molto, veramente faceva paura. Senta, ma scusi Argento, ma che ruolo gli farebbe fare a Berlusconi in un suo film? Beh, ad esempio il ruolo di una specie di serial killer, una canzona così, insomma. Una cosa così leggera, una cosa leggerina. Sì, sì. Io pensavo lei volesse fare la parte, che ne so, di uno che è circondato dall'arem, no? C'è uno circondato. Ma che dall'arem? C'ha quell'aria mezza morta che arem gli vuole circondare? Pare che però le cronache narrano, pare, no? Pare, da retta pure alle voci. Ma non lo vede che è mezzo morto, che non si legge in piedi, è grigio. È diventato grigio, la faccia chiusa, il volto sconvolto, tirato. Veramente non credo che sia, pensi a questioni al sesso, dice. No, dice no, ma guardi che ancora secondo me ha voglia. No, non ci credo. Non ci crede più lei. No, non ci credo assolutamente. non ci crede. E pare oggi sono sfilate al processo tutte queste ragazze che dicono che Berlusconi molla 2005 al mese, capito? 2005 al mese. Se lo facevano divertire, rideva lui, ma quando stava meglio, quando aveva il potere. Adesso che non c'è il potere, è morto, è mezzo morto. Scusi, ma il ritorno di Berlusconi che effetto le farebbe? Il ritorno di Berlusconi, ormai è impossibile. Ormai è impossibile, è impossibile. È una ipotesi ridicola. Dracula di Dario Argento. Dario Argento, ad esempio. Che ha votato nella sua vita? Cosa? Che ha votato lei nella sua vita? Votato. Votato. Sempre a sinistra? Ho votato Partito Comunista. Sì. Bravo, perché bravo? Che vuol dire bravo, Parenzo? Vuol dire bravo. Poi ho votato PD. Insomma, di sinistra, insomma. Ma alle primarie ci va a votare? Sì, ci vado. Bersani o Renzi? Ma sono molto indeciso, sinceramente. Anche che sarei per... O Bendola, O Bendola. Per tradizione, per anche per provenienza. Quanto sarei per Bersani, anche per generazione, eccetera. Però Renzi mi è simpatico. E allora? Ancora non lo sa? Quindi non lo so ancora. Non lo sa. Certo, una bella... E Grillo le piace? Grillo le piace? No, Grillo non mi piace. Non mi piace la sua arroganza, non mi piace... Però lui è perfetto per un film, Cioè, lui è un attore. Appunto, dico, perfetto. Ma tra l'altro ha fatto dei film, Grillo, penso di sì, no? Credo abbia... per qualche film, qualche piccola parte. Parte ha recitato. Sì. Però non le piace, questo caos. No, non mi piace la sua arroganza, non mi piace questo suo urlare, questo suo... Ma lo conosce lei, Grillo? Sì, l'ho conosciuto una volta a Torino e ha cercato di cooptarmi anche nel suo... Cioè? Nel suo movimento. Ah, recentemente allora? No, sì, 3-4 anni fa. Cioè, cosa le ha detto? Mi ha raccontato del suo movimento, forse in quel momento voleva cooptarmi nel suo movimento, io sorridevo e dicevo, interessante. Basta. Ma quando lo sente parlare, lei a che pensa? Ormai in televisione si vede continuamente, anche se poi lui critica i suoi che vanno in televisione. Sì, però lui ci sta sempre, sì. Beh, lo sai perché le televisioni lo cercano, Argento? Quando lo vede a fare quei grandissimi comizi in Sicilia dove è andato a nuoto eccetera, cosa pensa? Ma perché la gente lo va a vedere perché pensa che va a vedere un comico, vanno a farsi due risate e poi lo votano, però anche e quindi è solamente per questo che ci vanno, non è che ci vanno per Movimento 5 Stelle, vanno per, non sanno niente, per il comico che fa ridere, dai che stasera andiamo a fare due risate. Come fosse una cosa gratuito, poi, capito? Questo è vero, in Sicilia vanno per questo, quello è sicuro. Sì, però l'hanno votato poi. Vabbè, poi ha preso poi anche dei voti. L'hanno anche votato. Allora, voglio capire dal maestro del brivido, questo nuovo 3D pieno di schizzi di sangue, ma questa storia di Dracula... Ma che ne sai che c'è pieno di schizzi di sangue? Beh, il 3D, c'era schizzi di sangue sicuro. Vabbè, tu lo dici così, a gratis, cioè, a babbo morto lo dici, Parenzo. Beh, che ci sarà? Schizzi di sangue. Vabbè, allora, che vuoi sapere? Schizzi in 3D saranno, no? Vabbè, sì, poi allora? No, voglio capire in 30 secondi la storia. Cioè la storia è quella di Dracula, su un la attimo. La storia è quella di Dracula. Parenzo, è su, e dai. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono... Senti qui Parenzo, 19 gennaio Bergamo, Teatro Kreberg, 20 gennaio Padova, Gran Teatro Geox, io ci vado. 21 gennaio Torino, Teatro Regio, 24 gennaio Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, 25 gennaio Brescia, Teatro Grand, aspetta, 27 gennaio Livorno, Teatro Goldoni, 28 e 29 gennaio Bologna, Europa Auditorium, e così via fino a marzo 2013. Quando vieni a Roma, dimmelo che lo... Aspetta, fino a marzo 2013, ma di cosa parliamo? Ma questo signore qui, che si chiama Franco Battiato, per cui bisogna avere grande rispetto, ma noi ce ne freghiamo del rispetto quando sono in ballo questioni importanti, questioni politiche, ma che cosa lo fa fare l'assessore in Sicilia? Al turismo e allo spettacolo? Ma cosa c'entra? Per fare il tour? Per fare il tour? Dai, su, ma finiamo. Allora, Battiato è stato correttissimo. Ha detto: continuo a fare la mia... Ma come si fa a non capire? Continuo a fare la ma mia... Ma non ne abbiamo bisogno, facesse il testimonial, non l'assessore, facesse il testimonial. Lo diranno gli elettori di Crocetta, che se la penseranno come te. Ma che c'entra questo? Caro Kim Jong, chiusa parentesi. Vabbè. Andranno sotto il suo assessorato e lo assedieranno per giorni. Va bene. Come sanno... Ma non ci sarà mai l'assessorato, come fanno a assediarlo se sarà impegnato a fare il tour? Vabbè. è con noi Dario Argento, grande. Sono ancora qui. Eccoci. Sono congelato perché me l'hai fatto stare fuori nel ristorante per mezz'ora. Ma che sta mangiando? Che sta mangiando sto ristorante? Ma io sono celiaco, quindi ho mangiato minestra di ceci e polpi alla... La griglia. Guarda, cosa? Il maestro io lo vedo sempre perché abita vicino, cioè va. Ma abita a Roma Nord, abita. Sì, no, dietro casa mia. Vicino Olgiata, no, in zona Porta Pia a Roma. No, no. No. C'è un ristorante giapponese dove ci siamo incontrati più volte in zona Porta Pia. Al ristorante giapponese. In zona Porta Pia. Sì, sì, in zona Porta Pia. Sì, sì, vado spesso. Infatti ci siamo visti lì una volta, bene. Maestro. E lei aveva un coltello in mano, ho detto mamma mia cosa fa il maestro. Ma, lei, ma non è che adesso, mamma mia che cose banali che dici, il coltello in mano, il coltello in mano. Scusi signor Argento, ma io una volta ho visto un bellissimo quadro con Monti raffigurato, ma in epoca non sospetta, cioè prima delle tasse eccetera, nella prima parte di Monti proprio come Dracula. Con i due denti fuori, lo volevo pure comprare, ho fatto un errore perché era un quadro che sicuramente adesso vale abbastanza. Era un Monti tutto trasfigurato come Dracula, ecco, ma non sarebbe perfetto un Monti per questo suo film? Ma no. Insomma, io ogni volta l'ho fatto senza Monti, senza Berlusconi, senza Calderoli, senza... l'ho fatto con attori professionali. Vabbè, c'è anche sua figlia, per carità. Però voglio dire, sì. Lo vede come Dracula Monti lei oppure no? Oppure uno di è promontiano. Vabbè, insomma, mi pare un po', vabbè, è facile perché è facile dire che Cesucchi ha i soldi, sì, che Cesucchi ha il sangue. Sì. È scontato, dice lei, sì. No? Sì. Vabbè, comunque il top per Dracula mi sembra Berlusconi per lei, il top Ma Berlusconi, ma anche Calderoli non è male, c'ha quel volto stralunato. Da pazzo, che è abbastanza... Da pazzo! Una volta ti ricordi, Parenzo, Di Pietro fece un video horror con... Ah, ti ricordi? Un video horror di Di Pietro. Cioè... Trepitoso, sì, è vero, sì. È vero. Sì, Di Pietro ha fatto abbastanza di cose horror recentemente. Senza, Totti dove lo metterebbe nel suo film? Totti? Totti? Sì. A fare il servo scemo. Perché? Perché si fa, no? Che fa tutte quelle faccette, quegli scherzi quando qualche volta fa... Vede, un po' stupido, dice lei? Sì, un po' sciocchino. Un po' sciocchino, Vai, però un grande calciatore è stato. Grande calciatore. Anche dalla Ziale si bisogna di essere poi intelligentissimi per essere grandi calciatori. Però lei dice serve a volte, perché metti non so, Del Piero, è una persona molto intelligente ed è anche un grande calciatore. Cioè, sicuramente Totti non ha questa ma non credo a livello di, però non rappresenta un po' la Roma, non si sa da lei rappresentato da Totti la romanità, no o no? Ma io sono per la romanità perché ho una figlia che è laziale, una figlia quella romanista, sì. Io sono laziale, quindi c'è un mio papà era romanista, quindi c'è una mistura nella mia, sì, famiglia, quindi io non ma sono, rappresenta io, la romanità Totti non un po' sono o no? non sono contro la Roma in modo assoluto, sono più contro il Milan, contro la Juventus, sì, più contro l'Inter sarei, sì, che non contro la Roma. La Roma nel complesso mi è anche simpatica, diciamo. Però Totti lo vede anche come rappresentante della romanità oppure invece è proprio la romanità più becera, dice lei? Ma no, una romanità non è tanto becera poi, no, perché è anche simpatico, fa anche ridere. La lasciamo alla cena, grazie Dario Argento, grazie Antonio da Roma, Dracula, Antonio da Roma. Sì, buonasera, grandissimi. Dica. Allora, io volevo dire due cose, una su Scilipoti e l'altra volevo dire però che mi avete un po' rovinato la serata da quando ho saputo che Dario Argento è ciliaco, però questo fa... Vabbè, ho capito, però non è un dramma per noi, cioè è un dramma per lui, sarà un problema per lui. Però il rostro bianco albino di... del buon Dario Argento. Comunque su Scilipoti, allora premetto che io condivido ciò che dice il buon David Parenzo su tutta la linea politica di, sì, Scilipoti, umana non la giudichiamo ovviamente, però riguardo i giovani sono stato recentemente un po' lì davanti a uno dei loro banchetti, proprio davanti Montecitorio. Ma che è andato a fare, scusi? Ma no, io stavo lì per lavoro, ho visto il banchetto dell'MRN con il magico Tao che sventolava e allora ho detto andiamo un po' a prendere per culo i ragazzi di Scilipoti. Però devo dire, contrariamente a quanto mi aspettavo, che i due ragazzi che stanno lì al Gazebo a fare questa raccolta firme, sì, per una legge che sta facendo Scilipoti sulla prima casa, adesso non ricordo i dettagli. L'impignorabilità della prima casa, sì. Solito. Ma qualcosa del genere, qualcosa sugli sfratti. Adesso, sinceramente, non vabbè, ricordo. Allora sì, era questa qua. Allora? Sì, erano molto, molto preparati. Erano molto preparati. Cioè, addirittura il coordinatore nazionale di questo movimento. Preparati, ma ho capito, ma. Non è quello ed il punto. Insomma, ha ragione Parenzo, alla fine. Non è un po' paradossale che ci sia il movimento dei giovani del movimento di responsabilità nazionale, cioè i giovani dell'MRN, dai, insomma, di che parliamo? Ripeto, cioè è strano, perché un giovane diverso? Ecco, sì, esatto. Però devo dire, insomma, che i ragazzi, ecco, avevano studiato. Ecco, questo è stato interessante perché comunque, ecco, con molto pregiudizio a prendere per culo, invece poi, devo dire, insomma, ecco, in questo... Va bene, Antonio, grazie. Massimiliano da Pesaro, buonasera. Buonasera. Vada. Io... Fra poco, Parenzo, sì. ti ripropongo una nostra amica ormai, la signora Vento, Vento tra pochissimo, sì, allora cari amici della due, tre geni al latte della signora. Va. Aspetta, Massimiliano. Sono? Leggo. Sì, stasera poverino Parenzo l'hanno trattato male, eh? Eh sì, No, a me no, ognuno può pensarla come gli pare, secondo me Parenzo può dire quello che gli pare, ma è quello che dà fastidio è la incoerenza. Cioè? Nel senso che io... sono una persona che sta bene, sono un buono stipendio, mi dispiace magari per se c'è gente che guadagna meno, che viene licenziata e tutto, ma mi dà fastidio quando lui si infervora gli operai di qua, di là, certo. Poverini, e poi ma guadagna 15.000 euro al mese. Ma ne no, dà la poverini, metà degli operai. Ma perché bisogna essere così? A me quello dà fastidio. Io so di essere uno magari privilegiato, guadagno bene, ho casa, ho barca, ho tutto, e si può, mi come dire, per gli operai, ma tengo il mio e pace. Se volessi infervorarmi per questi poverini, se ma me la prendessi così poverini? Il cuore, io dico semplicemente, io dico che bisogna cambiare alcune regole, perché non è possibile, ad esempio, che ci sia, l'ho detto mille volte, cioè, questi che occupano, che devono occupare i tetti delle fabbriche per farsi sentire, è un dramma, ma ricordarlo, ma si può ricordare oppure si è patetici se lo si ricorda? Io non ho capito. È più che vero. È più che vero, però poi quando uno guadagna... Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Si può fare come facevano, non so, Bertinotti, che di quello che guadagnava metà lo dava al suo partito. Dai metà del tuo stipendio. Dai metà del suo stipendio. Ma voi siete due ubriachi. Giuseppe, provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera. Vada. Mi unisco ai due precedenti che descrivono Parenzo come un vero esempio di bellezza. E non potevate che invitare Dario Argento per consolare un po'. Cioè, perché lei pensa che Parenzo sia brutto, scusi? Ma è brutto, ma più che brutto, veramente bruttissimo. Ma provi a chiederlo anche alle sue colleghe che rispondono al telefono. Adesso non esageriamo, voglio dire. Lo chieda qualsiasi donna. Ma se mi dico che lei è un perfetto idiota, brutto, si offende o no? Non credo, ha una voce da fate bene a difendere i gay e l'altra sponda, perché ha una voce che veramente mi ricorda. Allora, oggi il signor Fiore, un fascista, un tizio che è il capo di Forza Nuova, Fiore dovrebbe, Roberto Fiore di Forza Nuova, a Bologna hanno, come dovrebbe sapete, essere fermato subito, d'accordo, tempo fa hanno processato per la legge Mancino, attaccato un manifesto, le perversioni vanno curate, a proposito degli omosessuali, ha detto: non possiamo tollerare questa spinta fortissima a parlare di alcuni argomenti nei media, come la Zanzara su Radio 24, c'è un'agenda nascosta per arrivare a un cambio legislativo per la demolizione della prima cellula della società, che è la famiglia. Ora noi tranquillizziamo il signor Fiore, in questa trasmissione non vogliamo demolire la prima cellula della società, che è la famiglia. Non si preoccupi, caro signor Fiore. Flavia Vento, no, come sta? Oddio, come sta? Allora, io voglio subito dire che sta lei, i suoi due neuroni che sono lì, che... Ma che due neuroni? Ma guarda che lì ci sono un sacco di neuroni. Allora, mamma mia, con questi neuroni, ma parlate di altro. Allora, innanzitutto diciamo che questa sera... Bella che intelligente, non si offende? No, guarda, bisogna anche capire il merito dell'intelligenza dov'è, perché anche un matto è molto più intelligente di uno che è normale, quindi bisogna capire un secondo, secondo me, hai capito? Chi è intelligente e chi non lo è. T'ha fregato. Ma infatti, almeno appunto... che è matta, che ha riconosciuto di essere matta, già scusi, questo, mi dica, noi siamo comunque, cioè, i cani che abbaiano, vorrei capire il suo ideale di intelligenza, cioè qual è il parametro, chi l'ha detto chi è intelligente, hai capito? No. Hai capito, il parametro sono le puttanate che ogni tanto scrive su Twitter e che mi divertono moltissimo, ma mi imbarazzano anche. Ma allora 18.000 persone che mi seguono e adesso sono arrivate a 20.000, sono tutti idioti? Molti, guardi, le assicuro che molti di questi la seguono come la seguo io sono uno degli idioti che la segue, la perché? Seguo perché quando sono depresso o ascolto Borghezio oppure leggo le fregnacce che lei scrive, perché sono talmente urlano, talmente vendetta, che dico, aspetta, vediamo un po' cosa fa. Allora, leggiamo le ultime cose. Lo consiglio anche a chi ci ascolta, seguite Flavia Vento, perché se siete lo consiglio anch'io, seguite Flavia Vento su Twitter, con la fidanzata, con chiunque voi vedete, e tornate subito a sorridere. Incredibile, perché sono stronzate talmente grandi. Adesso che ho pestato una lumaca, perché dovete sapere che a casa mia c'è un terrazzo e ci sono praticamente milioni di lumache. Milioni di lumache. Già, questa è una roba. Milioni delle lumache, se sono piccoline, sì. E ogni volta le pesto. Io poi mi metto a piangere perché mi spiace di aver ucciso una piccola lumaca. Beh, questo è giusto. Questo è giusto. Allora, ma cosa è giusto? Ma cosa gli dici che è giusto? Allora, per le sogliolette. Ma che gli dici che è giusto? Senti. Senti, per le sogliolette stasera faccio un pigiama party, che ridere, tutti in pigiama, questo ha scritto. Che cosa vuol dire? Beh, che fa un pigiama party, è molto semplice. Il pigiama party era nel film più bello e visto negli anni 70, che era Grease, dove appunto queste ragazze facevano il pigiama party e parlavano appunto dei loro uomini, dei loro fidanzati. Ma tutte donne stasera a questo pigiama party, signora Vento? Sì, donne e cani. Tutte donne e cani. Beh, mi inviti, vengo, mi dica dove. Ma che quindi, ma che ti invita? Non sono ammessi, perché ma lei non è che non è che le piacciono le donne da un po' di tempo a questa parte? No, non mi piacciono assolutamente le donne, piacciono gli uomini. Le donne. Quando è l'ultima volta che ha avuto un rapporto sessuale, signora Vento? Ma questi sono affari miei, comunque molto poco tempo fa, non si preoccupi. Molto tempo fa. No, poco tempo fa, ha detto, poco tempo. Ma poco cosa vuol dire? Ma un anno, sei mesi? Guardi che ho la fila. Ma questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio. Io dico di no, perché sto cercando il principe qui al Castello Fatato, come dicevo, per le zucchette, perché le zucchette, insomma, era un mio modo di dire. Ma chi sono le zucchette? Dire. Cioè, quelli stupidini? Zucchette è un modo di dire, o i boh. Io vivo nel mio mondo fatato, quindi parlo di zucchette. Ma le sogliolette chi sono? Il mondo fatato, ma come vive la sogliolette? Per le sogliolette, a voi vi piacciono le sogliole? Sì, abbastanza, le soldi. Ma di che cosa vive la signora Vento? Io non capisco. Di cosa vive? Del suo lavoro vive? Di che cosa vive? Del mio mondo surreale, che è molto meglio vivere in un mondo surreale che in questo mondo fatto di guerra e ipocrisia. Capito? Di guerra. Comunque ha detto che è pronta a tutto per Grillo. Non mi drogo. Niente, mai. Mai fatto una canna in vita sua. Ogni tipo di droga, no, su questo io non si è mai fatto una canna in vita sua, signora. No, io su questo scherzo e rido, ma lancio un appello a tutti i giovani, sono veramente contro ogni tipo di droga. È una cosa e qual è il veramente posto più strano dove ha fatto l'amore? Gli oggi che si fanno le canne, pippano cocaina, sono assolutamente contrari a hai capito? Qual allora, è il posto più strano dove ha fatto l'amore? Ma che Vento? Te ne frega a te? Che cosa te ne ma frega? Parezzo, ma vado alla sua moglie a renderla felice stasera. Almeno, diamo qualche notizia interessante, scusi, non ho capito. Dove lo faccio io? Ma è vero che è pronta nessuno. A tutto per entrare nel movimento di Grillo? Questo ha dichiarato ai giornali, adesso non è che si può tirare indietro però. No, io non sono pronta a tutto, non voglio sgomitare perché non sono una che sgomita, che chiede, e io posso soltanto dire che ci sono tante persone al Parlamento che si dovrebbero vergognare a là. Hai capito, Parenzo? È quello che dici tu. Lei l'ha detto in romanesco, ma è esattamente quello che dici tu con questo linguaggio forbito. Ma ci dovrebbero proprio ministri che veramente... Ma le 2000 cambiare opinione. Scusi, signora Vento, 2500 euro come stipendio alle Olgettine. Ha sentito questa notizia di oggi, no? Cioè Berlusconi dà ogni mese a tutte le Olgettine 2500 euro. 2500 euro fisse come stipendio così. Io credo che ognuno fa della propria anima quello che vuole. Se queste donnette sono disposte a queste, io credo che pur di salvare la mia anima faccio la cameriera, non so. Io non sono disposta a queste cose. e l'anima poi insomma alla fine tutti moriamo e poi alla fine c'è una resa dei conti. Hai capito Parenzo? E i pigiama party è bellissimo. E quindi la cosa, l'unica cosa che non mi possono attaccare, io non sono mai stata indagata per queste cose. Sono mai, mai, ad Arcore, mai ad Arcore? Mai, non mai. Ho mai conosciuto Berlusconi, ma non perché ce l'ho con lui. Senta, ma il pigiama perché... party quanto dura, che devo concludere? Quanto dura il pigiama party? Il pigiama party dura tutta la sera, sono le mie amiche che adesso vengono, ci beviamo un bel bicchiere di vino e mangiamo, sto cucinando una spigola al sale e siamo e al le top. Cozzette. L'abbraccio fortissimo. Arrivederci. A presto, signora. A presto. Arrivederci. Ciao. Lunedì 18:30. Vini giovanardi, fatevi una canna. Vini giovanardi, fatevi una canna. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Sei bagato dentro. Radio 24. La passione si sente.